Io ovviamente non inizio con le istruzioni per l'uso perché sarebbe assolutamente inutile, visto che avete l'istruttore qua in persona, gli istruttori in persona. Ma non inizio con le istruzioni per l'uso perché secondo me bisogna, per recuperare il potere contrattuale, ridare senso all'esercizio del potere. Lo sto vivendo in prima persona, cioè tutto ciò che sta accadendo relativamente alla forza della contrattazione va recuperato in termini di potere attraverso l'attribuzione di senso al del ruolo che bisogna vivere all'interno delle organizzazioni pubbliche. Perché vi dico questo? Perché quando nasce la contrattazione, e quella integrativa in particolare, il legislatore non l'ha voluta per contrapporre le parti o per creare conflitti ulteriori rispetto a quelli che ci sono sempre stati nelle organizzazioni. Quando nacque la contrattazione integrativa, in particolare, come si chiamavano prima l'RSA, della Ringa, era presidente dell'ARAN, ma disse proprio, questa cosa fu messa per iscritto, che la contrattazione integrativa avrebbe dovuto rappresentare il migliore strumento per la gestione delle organizzazioni pubbliche e per il migliore supporto alla gestione dirigenziale. Il problema è che queste affermazioni, che hanno una connotazione molto, passatemi la parola, di etica amministrativa, sono state poi vissute invece con una trasposizione automatica delle dinamiche aziendali, dove invece non è l'interesse pubblico l'obiettivo, ma è la difesa strenua della parte contrattuale debole. Ecco, nel pubblico è mancata questa riflessione, cioè prima di passare alla dinamica contrattuale avremmo dovuto tutti riflettere sull'interesse pubblico da perseguire in ogni singola amministrazione. E voi lavorate in un'organizzazione pubblica che svolge una funzione sociale, è l'unica organizzazione pubblica insieme alla sanità, cioè la sanità ormai è più sul versante bancarella dei medicinali, però voglio dire, la funzione sociale della scuola è ancora indiscutibile. Direi costituzionale. Perché è la Costituzione che deve dare, certo, la funzione sociale è stabilita dalla Costituzione, è un diritto di libertà l'istruzione, quindi non c'è dubbio. E capite bene che non può partire una relazione sindacale, una relazione contrattuale, se non si ha in mente l'obiettivo. L'obiettivo, prima ancora che quello della difesa del lavoratore, lo dice lo stesso contratto collettivo nazionale, è il miglioramento della qualità del servizio attraverso la tutela del lavoratore e la valorizzazione del lavoratore. Sono cose importanti perché poi nelle dinamiche comunicative, se si sorpassa questo passaggio, si interviene immediatamente solo sul conflitto, strumentalmente, da una parte e dall'altra, lo devo dire, senza nessuna riserva. Vado velocemente per farvi capire come si arriva alla contrattazione integrativa. È una contrattazione che nasce in parallelo con l'attribuzione dell'autonomia scolastica e l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto. Vi dico la mia, secondo me l'errore è stata la dirigenza ai capi d'istituto, ma non perché se non se la merita, non c'entra niente. Perché creare una figura professionale all'interno di una struttura paritetica come la scuola e creando questa figura non come sviluppo professionale del nucleo operativo determinante, cioè dei docenti, ma come un traguardo al quale si arriva attraverso una carriera diversa, per forza poi mi crea nelle relazioni sindacali una contrapposizione di vedute anche, ma anche di obiettivi concreti. Questa cosa si nota ancora di più oggi, che l'evoluzione ha portato ad accentuare attraverso due leggi fondamentali, il 150 e la legge 107, ma lo vedremo più avanti. Quindi innanzitutto il decollo dell'autonomia e poi l'attribuzione appunto della dirigenza ai capi d'istituto. Questa l'obiettivo iniziale di questa normativa era quello di... Grazie. Giuna è arrivata con il treno. Ma non mi preoccupate. Perdonate. Non mi preoccupate. momento in cui si attribuisce appunto l'autonomia, in tutto il pubblico impiego c'era stata una rivisitazione del ruolo del dipendente pubblico e degli obiettivi da perseguire in ambito pubblico, e si cominciò a parlare di responsabilità dei dipendenti pubblici rispetto agli obiettivi raggiunti, ma anche di flessibilità. Cambio pertanto il ruolo della scuola, perché viene a definirsi un nuovo strumento di relazione con l'utenza, che è l'offerta formativa, cosa che prima, sapete bene, non era definita. Questo primo contratto, che parlò della contrattazione integrativa, cioè il contratto del 99, stabiliva proprio che ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali. Questa cosa ce la troveremo portata nel tempo fino ad oggi. Non è di poco conto. Perché? Perché innanzitutto già si faceva cenno al rispetto delle prerogative del capo d'istituto, che ovviamente, anche se allora era un primus inter pares, non era un dirigente, aveva però sempre l'attribuzione di funzioni di collettore tra l'allora provveditorato e la base della singola scuola, e gli organi collegiali, perché il testo unico ovviamente era già vigente, e prerogative di organi collegiali non possono essere modificate se non con una legge dello stesso peso. Questa cosa ve la dico perché anche oggi bisogna tenere presente che la 107 non ha modificato l'assetto dei poteri. Questo bisogna tenerlo presente, non c'è stata nessuna modifica. Tutto ciò che dice la 107 va interpretato alla luce dei poteri già attribuiti al dirigente dall'articolo 25 del 165 e agli organi collegiali dal testo unico del 97. Quando il legislatore ha voluto modificare il testo unico, lo ha fatto in modo esplicito, e sulle competenze degli organi collegiali non c'è stata nessuna affermazione, né del decreto 150 né tanto meno della legge, da parte della legge 107. È stato quindi con questo contratto 98-2001 che la contrattazione è entrata nel sistema delle fonti pattizie e del rapporto di lavoro. Capite bene che quando in un'organizzazione si innesta un sistema di relazioni sindacali, automaticamente va scritta la sceneggiatura, non so come dire, la sceneggiatura e la scenografia pure. Nella scuola questa cosa non c'è stata, nel senso che si è passati immediatamente alla difesa delle posizioni, ed è stato un salto che secondo me lascia ancora il segno, perché per innestare buone relazioni sindacali che convengano a tutti, alla società in primis e alle parti, occorre stabilire i termini della relazione sindacale. Non ho mai visto, io dimmi se mi sbaglio, non lo so, un protocollo di relazione sindacale. Un protocollo d'azione. Un protocollo di relazione, cioè nella nostra scuola noi decidiamo tra le parti, quindi parte tecnicamente, di portare avanti le relazioni sindacali in questo modo. Molti contratti di scuola ce l'hanno, nella parte normativa. Ma non è un problema normativo, è un problema di comportamento sindacale. Ovviamente nel privato questa cosa è già assodata a livelli altissimi, no? C'è una specie pure di comportamento formale declinato e concordato, ecco, questo voglio dire. Non esiste che vado lì a recriminare una cosa, cioè abbiamo una serie di relazioni sindacali già delineate che devono portare a quell'obiettivo, e tutte e due hanno l'obiettivo concordato, cioè quello che dicevo all'inizio, l'interesse pubblico specifico da raggiungere. Quindi occorre molta chiarezza su questo, perché non dimentichiamo che le relazioni sindacali sono portate avanti da quelli che lavorano dentro la scuola. E quelli che lavorano dentro la scuola sono quelli che determinano l'obiettivo specifico della scuola, a maggior ragione oggi con la nuova filiera decisionale della 107, cioè i docenti che sembrano essere stati indeboliti, no, da tutto il sistema normativo come ruolo decisionale, in effetti ancora oggi detengono il potere più importante della scuola, perché costituiscono il nucleo operativo, costituiscono i soggetti che decidono come raggiungere l'obiettivo, sia collegialmente sia individualmente, e sono quegli stessi soggetti che spesso si trovano poi a negoziare. E quando negoziano, però, devono avere chiaro non solo l'obiettivo, ma anche il mandato che viene dalla scuola, dai colleghi, non dico da quelli iscritti, dai colleghi, perché la caratteristica dell'RSU, a differenza dell'RSA, è la rappresentatività di tutto il personale, non è una cosa da poco, è un principio di civiltà, di partecipazione democratica altissima. Non so quanto ce l'abbiano chiara nel vissuto tutto questo. È una cosa di grande importanza. Solo un'unione in questo senso dalla parte dei lavoratori può facilitare il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, cioè la percezione da parte di tutti i lavoratori che quel soggetto mi rappresenti indipendentemente dalla sigla sindacale alla quale appartiene. Nella fase del mandato questa cosa bisognerebbe chiarirla, perché do fiducia alle persone attraverso quella sigla e faccio un ragionamento molto pesante. Però penso che loro lo abbiano ben chiaramente, sì, le scuole poi i voti molto spesso non sono per appartenenza alla sigla sindacale. Infatti, no, ma va bene, sono contenta. Noi lo diciamo spesso. Sì, sì, è una cosa molto like da affermare sempre questo. È una forza proprio. Questo è solo l'iter dei contratti che potete vedere, ma l'ho messo solo per capire come è stata l'evoluzione normativa per poter arrivare alla contrattazione integrativa come viene svolta oggi. Ci sono dei problemi legati al nuovo quadro delle relazioni sindacali. Innanzitutto i fattori limitativi della contrattazione integrativa di istituti. Il primo da tutti, fra tutti, la sovrabbondanza di ambiti negoziali centralizzati, cioè il fatto che sempre di più, in coerenza con quello che sta accadendo in tutta la pubblica amministrazione, c'è una ricentralizzazione delle decisioni. Molto spesso si indebolisce la contrattazione a valle, perché si accentuano le decisioni primarie, quindi alla fine i giochi sono già fatti. Quando io normo per legge un comportamento, no? Anche se poi va in contrattazione, sapete bene che ormai il livello contrattuale è fonte secondaria, quindi è già regolata quella partita. La governance interna del sistema scolastico, di cui parleremo, è un fattore limitativo della contrattazione, perché come dicevo prima, con la figura dirigenziale costituita ai sensi, cioè ispirata più che costituita alla 165, alle nuove funzioni dirigenziali brunettiane, chiamiamo così, del 165, con questo spostamento di competenza rispetto all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale, sicuramente è un fattore limitativo di quello che prima era una dialettica molto più ampia. E poi la natura ibrida, non so come chiamarlo, degli insegnanti, perché gli insegnanti costituiscono, è vero, il nucleo operativo della scuola, cioè il motore e la base che determina il risultato, ma sono soggetti che hanno una struttura in parte impiegatizia, in parte professionale, e quella professionale ancora oggi, in una percentuale che non è più tanto chiara, è sempre coperta da una riserva costituzionale. Se io parlo di contrattazione integrativa, devo sempre tenere presente che c'è una zona franca da rispettare, e anzi una zona franca che mi condiziona gli oggetti contrattuali. I collegi non hanno, secondo me, la percezione piena di questo spazio decisionale, cioè non c'è mai stata una riflessione sulla potere di libertà del collegio con la recinzione di questo spazio attraverso il quale poi, come possiamo dire, ispirare e determinare le altre scelte. Faccio un esempio molto estemporaneo rispetto a quello che sto dicendo, ma poi lo ritratteremo. Pensate a tutta la filiera oggi programmatoria della scuola che parte dal RAB, no? dal rapporto di autovalutazione, poi PDM, poi lo sapete bene che cosa accade. È vero, questi strumenti sono dati in gran parte in mano al dirigente, ma mi spiegate un dirigente come può sorpassare l'area decisionale del collegio dei docenti appropriandosi di uno strumento che entra nel merito della materia didattica? Se il collegio comprendesse la forza preliminare rispetto a quello di cui a quello che utilizzerà il dirigente, tutto secondo me andrebbe pure in modo diverso. Perché parto da qui? Perché la materia della contrattazione, che attiene all'organizzazione del lavoro e delle risorse, non può prescindere dal nucleo e dall'obiettivo del servizio, perché è funzionale la contrattazione, non è a prioristica, non è che io prima vedo cosa vogliono far fare le persone e poi vediamo come queste cose possono servire all'obiettivo. No, il cuore forte della scuola, il nucleo operativo, cioè il collegio dei docenti, dovrebbe essere la base decisionale che mi influenzerà tutte le altre decisioni, quelle organizzative, quelle gestionali e quelle contrattuali. Perché il personale ATA nella scuola non è un personale di linea, come si dice nell'organizzazione, è un personale di servizio rispetto all'obiettivo di missione. Poi io devo valorizzare questo personale, ma in relazione all'obiettivo, non in relazione a se stesso. Su questa cosa bisognerebbe essere molto chiari e molto coraggiosi pure, perché se non si arriva più da nessuna parte, con le risorse che diminuiscono, la filiera che si irrigidisce, e poi le competenze dirigenziali appunto secondo il decreto 150 in particolare, a 107 è uno scherzo, quindi incide poco poco. Sì, ma il bacino è la 107, è uno scherzo. Comunque la figura dirigenziale riconfigurata secondo il decreto 150 è un fattore limitativo alla contrattazione, ma per definizione, non perché per qualche posizione individuale. Conseguenze di tutto questo rimangono praticamente immutabili le materie della contrattazione integrativa. Vediamo perché questo è vero. Vedete dove sono le finalità del contratto collettivo integrativo? Articolo 3 del contratto nazionale, scusate, del contratto collettivo integrativo, sì. Allora, articolo 3 del contratto nazionale, il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza, quindi c'è un interesse e un'esigenza, di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Questa cosa io la vorrei vedere in ogni contratto integrativo, cioè prima delle decisioni vorrei vedere prima l'esplicitazione di questi due passaggi, la motivazione, anche se un contratto non gli viene la motivazione. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. Essendo un contratto, cioè un atto di autonomia negoziale, non segue le norme del diritto amministrativo, ma come qualsiasi contratto si basa sulla correttezza, buona fede e trasparenza, perché siamo in ambito pubblico. Attenzione, perché queste cose non sono cedimenti, sono punti di forza. Un RSU che rivendica queste cose passa dal punto di vista della relazione sindacale, dal punto di forza, non è il contrario. Non è sorpassando questi ragionamenti e andando alla battaglia per la difesa di una posizione che si acquista la forza. La forza si acquista quando si costringe l'altra parte a scendere sul piano della declinazione degli obiettivi e degli interessi, perché se le parti si impegnano in questo, poi si vincolano a questo. Mi spiego: se la scuola individua questa parte qui, ecco, il punto di efficienza da raggiungere in quella scuola attraverso l'organizzazione del servizio, capite bene che se le parti lo individuano e si accordano su quell'obiettivo, poi si legano entrambi, cioè il dirigente si lega rispetto al mantenimento o alla creazione delle condizioni per favorire l'obiettivo, e i lavoratori si impegnano per seguire l'obiettivo attraverso la prestazione individuale. E poi c'è l'articolo 4, la contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. Vedete che è tutto funzionale all'interesse pubblico. È tutto funzionale. L'interesse pubblico non è una roba posta fuori dalla scuola, è dentro la scuola. Quando si parla di interesse pubblico, non si intende l'interesse della Costituzione all'istruzione, si intende l'interesse di quella scuola. E adesso con gli strumenti che ci sono bisogna stare doppiamente attenti, perché possiamo avere una serie di strumenti costruiti solo formalmente rispetto a quello che dico e poi una contrattazione che va in direzione assolutamente divergente. E invece l'obiettivo della contrattazione, visto, ripeto, che è gente della scuola che va a contrattare, è quello di aver chiaro tutto il flusso, cioè dall'individuazione, dall'analisi del RAB al piano di miglioramento, avere un'idea chiara sul flusso di tutta questa materia, in modo tale che la contrattazione poi possa sostenere tutto il sistema attuativo previsto dalla normativa. Le materie oggetto di informazione preventiva, inutile che le leggo, lo sapete, l'articolo 6, una proposta di formazione delle classi e determinazione degli organici, il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, i criteri di attuazione dei progetti. La materia dell'informazione preventiva, perché il legislatore l'ha voluta? Perché l'informazione è uno strumento di partecipazione. Però capite bene che se io intendo l'informazione preventiva soltanto come una trasmissione via mail, una roba, una comunicazione arida di quello che è la materia, non creo relazione sindacale. Informazione preventiva non vuol dire solo questo, ma può anche voler dire che il dirigente, indipendentemente dal modello di relazione sindacale previsto, non negozia ma comunica con le RSU anche materia che non è oggetto contrattuale. Ma conviene anche al dirigente, quando se ne rendono conto, conviene al dirigente ampliare il modello di relazione sindacale, perché nessuna organizzazione mi aiuta tanto come dirigente se non quella coinvolta nel momento decisionale. Quindi sarebbe proprio di interesse concreto. Materia di informazione successiva, siamo nella stessa logica. Ma capite bene, nominativi del personale utilizzato nelle attività, e qui si scatena di tutto e di più. Perché? Perché tra il momento programmatorio, no, delle attività, e poi vedremo lo strumento dei piani delle attività, il momento realizzativo delle attività e il momento di informazione successiva dei nominativi all'RSU, in mezzo c'è la discrezionalità dirigenziale, ma che è una discrezionalità che si riduce a poco se quella scuola lavora in modo trasparente e ha fatto partecipare già dall'inizio tutti alla pianificazione delle attività. E sono materie che si possono vivere in tanti modi, è proprio la sceneggiatura che cambia il risultato, ma la sceneggiatura dipende purtroppo da due soggetti, uno che può proporre e l'altro che ha il potere di realizzare un modello sindacale diverso. Mi spiego, l'RSU può chiedere partecipazione, ma purtroppo, essendo una relazione paritetica, è l'altra parte che ha il potere di gestione che può decidere se cedere spazio o se coinvolgere nel proprio spazio. A livello, sto dicendo, di partecipazione, non di codecisione. Non confondiamo, una cosa è la codecisione che è contrattuale, no? Quando si fa il contratto è una codecisione. Una cosa è la partecipazione alla tedesca, cioè in Germania non è che decidono solo i sindacati, ma i sindacati partecipano dappertutto. Cioè la partecipazione è un momento di responsabilizzazione indipendentemente dal fatto che poi si concretizzi in un accordo. Qual è l'istituto previsto nella prossima tornata d'intesa? Ok. Pensate a questo istituto previsto da una norma aggiuntiva alla Brunetta, vero? Sì, quando c'è stato l'aggiustamento alla Brunetta, l'intesa, no? che sarà prevista nel prossimo contratto su materie che non sono oggetto di contrattazione, ma di gestione dirigenziale, ha un grande valore, speriamo che avrà un grande valore, ma l'intesa non è obbligatoria. All'intesa si giunge se le parti sono proattive, cioè se hanno intenzione di partecipare reciprocamente ad un lavoro preliminare rispetto poi ad una decisione che può spettare anche ad una delle parti e non ad entrambe le parti. Ma appunto è una maturazione del ruolo dirigenziale che può portare a questo. Che pensiamo che nelle aziende, nella Ferrero, in queste grandi aziende che avevano una partecipazione, una gestione, anzi scusate, del personale molto proattiva, la relazione sindacale fosse fatta solo per beneficenza, ma conveniva all'azienda avere la gente motivata e disponibile ad orari, a trasferimenti, a cambiamenti di, no, di innovazione continua, ma conviene a tutti. Quando mi ricordo un professore di diritto del lavoro che spiegava bene questa cosa, le relazioni sindacali richiedono un momento iniziale di grande, come si dice, chiarezza tra le parti, no? Il nostro obiettivo è questo, il tuo e quell'altro, cerchiamo di lavorare per raggiungerlo, ma se si lavora uno contro l'altro sarà sempre un risultato a somma zero. Se si vuole il risultato bisogna veramente aprire alla partecipazione di tutte le parti, indipendentemente dall'esito finale. Le materie contrattabili ai sensi dell'articolo 6, lo sapete bene, no? Queste materie ovviamente risalgono ad un momento antecedente alla brometta, il che vuol dire che era un momento in cui le fonti erano diverse. Cioè noi avevamo la fonte legislativa, cioè la legge, e il contratto, che erano sullo stesso piano. Perché? Perché il contratto poteva cambiare la norma sempre, derogare quindi alla norma, a meno che la norma non lo avesse impedito esplicitamente. Con Brunetta le cose si scambiano totalmente. Il contratto non può derogare alla norma, a meno che la norma non prevede espressamente la possibilità di modifica, cioè hanno veramente ribaltato il mondo in questo modo. Sul perché abbiano ribaltato il mondo sono stati scritti fiumi di parole. È vera una cosa, che lo spirito di Della Rigna, per riportarlo a un momento storico, non ha portato grandi risultati, perché tutto quello che avrebbe dovuto servire per la valorizzazione vera del personale non ha portato risultati, ma solo ad un incremento salariale, anche perché lo strumento contrattuale dell'incentivo, l'incentivante, insomma, è stato utilizzato per sopperire alla mancanza della crescita salariale. Quindi, insomma, c'è stato un inciuccio a livello di governo, per cui il governo ha lasciato spazio alla contrattazione, cioè invadete il campo, tanto non vi diamo soldi, e utilizzate quello che avreste dovuto utilizzare per migliorarlo, mettetela. E poi appunto ci accusiamo a vicenda. L'accordo è stato di vertice, è stato un accordo tra i poteri che ha portato alla deriva, e Brunetta è intervenuto per riequilibrare le cose. Diciamola proprio tutta com'è, che poi come l'abbia fatto, però è voluto intervenire su questo. È così. Allora, materie di indiscutibile competenza contrattuale, nonostante il Brunetta, direi: diritti sindacali, sicurezza, distribuzione del fondo di istituto. Su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda le altre tre materie, l'assegnazione, la riutilizzazione, tutto quello che è gestione del lavoro e microorganizzazione, si lascia si è lasciato già dall'inizio alla contrattazione il compito di definire i criteri generali, anche prima, no, della protetta. L'obiettivo era quello di creare un'organizzazione con il consenso delle parti, lasciando sempre lo spazio al dirigente per la parte finale. Che cosa accade però nel corso del tempo? Viene modificato il principio proprio della ripartizione delle materie, come vi dicevo, da parte della Brunetta. Perché? Perché viene modificato, viene ripreso in modo più preciso l'articolo 2 e 5 del decreto 165, quello il testo unico sul pubblico impiego, e il dirigente viene dichiarato come l'unico responsabile esclusivo della gestione del personale e della microorganizzazione. adesso mettere i paletti tra la gestione del rapporto di lavoro di natura contrattuale e la microorganizzazione dell'ufficio e la gestione del personale è una cosa difficilissima, al punto che la giurisprudenza all'inizio, no, si scatenò su questo conflitto nato proprio sulle materie. A un certo punto è venuta fuori, ve l'avete detto forse, una norma interpretativa che ha detto altro, la il 165 entra in vigore subito, quindi i dirigenti hanno da subito questo potere di gestione del personale e di microorganizzazione degli uffici. Nella prossima tornata contrattuale si vedrà di inserire questo modello dell'intesa per attutire questa, come possiamo dire, questo storno di competenze a danno della parte contrattuale. Ma che cosa nella scuola questa cosa è accaduta veramente e può accadere? Perché ho messo problemi interpretativi? Perché è vero, il dirigente scolastico è inserito nel testo unico sul pubblico impiego, regolato dall'articolo 25. Ma il testo unico sul pubblico impiego, l'articolo 5, ha previsto questa normativa sui poteri dei dirigenti per la dirigenza pubblica in generale. Che cosa è accaduto? Per i dirigenti pubblici in generale, il loro profilo è stato modificato a seguito di questo articolo. Infatti, nell'articolo 17 del 165 è previsto che i dirigenti pubblici di seconda fascia, come i nostri dirigenti scolastici, abbiano dei poteri, anche perché poi devono valutare il personale e concorrere all'evoluzione della loro funzione, del loro profilo professionale. L'articolo 25 invece, che riguarda i dirigenti scolastici, non è stato adeguato a questo principio di cui stiamo parlando, cioè al dirigente scolastico io non posso applicare il principio della piena gestione del personale e il potere di microorganizzazione dell'ufficio. Perché? Perché la scuola è un'organizzazione caratterizzata innanzitutto, come abbiamo visto, dal nucleo operativo semiprofessionalizzato, no, come dice Cavalli, cioè docenti con una parte di libertà di insegnamento, caratterizzato da un sistema di organi collegiali che hanno ancora potere decisionale. E ricordatevi che gli organi collegiali per definizione non sono sottoposti alla dirigenza, ma non perché la scuola, proprio per definizione, in un'organizzazione nella quale ci sono organi collegiali, il vertice dell'organizzazione li ha al lato, nel senso che non sono subordinati a questo, ma sono paralleli, hanno solo competenze diverse. Ed è una cosa che ovviamente influenza il nuovo regime brunettiano della competenza, dei poteri. Appunto, mi chiedo, viene modificata sta norma? Attenzione che qui i sindacati hanno una responsabilità di cui non si sono resi conto. Guardate che cosa hanno scritto nel contratto collettivo dei dirigenti, senza rendersene conto. La funzione dirigenziale della scuola è il contratto collettivo vigente dei dirigenti, si esplica con i compiti e le modalità previste dal 165, e va bene perché riguarda l'articolo 25. Fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 132, che non mi ricordo qual è, nonché dal decreto 150, ma se ne sono accorti quando non lo so. Se io richiamo il 150, vuol dire che introduco nel profilo dirigenziale della scuola tutti quei poteri di gestione che sono impossibili da mettere in campo. Ripeto, perché non è ad oggi possibile che il dirigente scolastico si possa considerare un datore di lavoro al pari degli altri dirigenti pubblici. E dico pure il perché in due parole, perché gli altri dirigenti pubblici, come gli altri dirigenti privati, hanno il pieno controllo della prestazione lavorativa dei dipendenti e quindi hanno un potere d'ordine di direttiva molto preciso, come dice il codice civile. Nella scuola tutto questo non ci può essere, perché rispetto ai docenti il dirigente non ha il pieno controllo della prestazione. Quindi al prossimo contatto deve togliere questa roba qua e non bisogna metterla. Ma veramente un'ingenuità, meno male che nessuno se ne accorge di fare di quello che c'è scritto. Non è che No, no, nessuno se ne accorge, nel senso di loro, degli altri, dei dirigenti. Se un dirigente prendesse il suo contratto, immagino, ma come? Qua c'è scritto che io faccio le cose a 150, allora ragiona meglio. Sì. Non bisogna. Sì, sì, sta roba. Ma invece che stanno, si può pur nominare, ma poi il 150 non l'hanno dimenticato, c'è l'articolo 25. Anche perché, scusate, il contratto è poco secondario, quindi è innocuo rispetto a questa cosa, diciamo così. Poi abbiamo l'altro profilo non, come possiamo dire, drammatico, ma consistente, del direttore dei servizi. Dunque, il direttore dei servizi è l'unica funzione. C'è qualche direttore dei servizi? Uno c'è. Allora, il direttore dei servizi è inserito in una catena gerarchica, no? Però, a differenza delle altre figure intermedie, pubbliche, diciamo, degli altri funzionari pubblici, ha una specie di attribuzione di competenza, di micro-organizzazione, anche se operativa, rispetto al personale ATA, che scompiglia la ripartizione dei poteri, perché non è il dirigente l'unico che detiene il potere organizzativo e di gestione del personale, perché c'è il direttore dei servizi che addirittura propone il piano delle attività al dirigente. Quindi abbiamo un'organizzazione che assolutamente non si può avvicinare a quelle altre, alle altre amministrazioni pubbliche. Le competenze del Consiglio rimangono quelle che sono. La Brunetta non le ha toccate, per cui il Consiglio ci mette ancora mano, per esempio, rispetto al qual è quell'articolo 82, quello rispetto all'uso del fondo di istituto per l'attuazione della metodica, quella roba lì. Ecco, quelle competenze non sono cambiate e sono competenze che vanno in una direzione diversa rispetto a quello che dice la Brunetta, perché entrano sempre in una sfera di gestione che dovrebbe essere in teoria dirigenziale. Quindi è opportuno mantenere assolutamente l'assetto attuale delle dipendenze da fare. Io sono proprio convinto che bisogna lasciare le cose per ora come sono. Ecco, questa è la rappresentazione di quello che vi ho detto. Noi abbiamo due organi collegiali che si pongono sullo stesso piano del dirigente. Le competenze sono stabilite nel testo unico, alcune competenze di questi organi collegiali sono stabilite nel contratto collettivo. Allora però attenzione a questo passaggio che vi può essere utile: non è che quello che è nel contratto collettivo recede automaticamente perché è fonte secondaria, no, perché se quello che è scritto nel contratto collettivo trova la propria fonte nel testo unico, le competenze permangono. Vi faccio l'esempio pratico: funzione strumentale. Allora, funzioni strumentali. Vi ricordate appena uscita la Brunetta, la NPA? Le funzioni strumentali devono essere individuate dal dirigente. Ah, no, è vero che le funzioni. Dopo la 107. Anche dopo la 107, ma non è così. Perché? Perché? La 100, perché il contratto prevede che sia il collegio a individuare le funzioni strumentali, ma la competenza al collegio non deriva dal contratto, deriva dal testo unico, dall'articolo 7, che prevede che il collegio deliberi sul funzionamento didattico e organizzativo. E quindi, nonostante 150, nonostante 107, il collegio continua, ma che dirò di più, non solo le funzioni strumentali, ma un pezzo dello Stato deve passare dal collegio. Poi lo vedremo. Noi diciamo che il tutto del passato è nuovo. Ma anche le funzioni strumentali è un istituto contrattuale. Esatto. Attraverso la fonte normativa le funzioni strumentali no, è il contratto. La funzione, cioè la funzione strumentale. La votazione a scrutinio segreto o attraverso Vediamo se ve l'ho messo con le diapositive. Allora, domanda per conto loro, ma dopo te le lasci? Allora, ascoltatemi bene, vi apro questa cosa dello Stato che è interessantissima. Io, mi piace la materia. È previsto che un dirigente possa individuare uno stallo, il proprio stallo, fino al 10% per il supporto organizzativo e didattico. Va bene, Non è un problema questo. Dove sta il problema? È che uno staff di supporto all'attività dirigenziale, quindi uno staff di linea. Quando un dirigente ha uno staff di linea, cioè per il supporto, gli deve delegare delle funzioni a questi soggetti, non questi come vanno a lavorare. Allora, sulla parte organizzativa, cioè quando il dirigente decide di spostare competenze sue su uno dei componenti, lo può fare. Ti delego a gestire le ferie e i permessi del personale delle varie sedi, lo può fare, sta spostando una competenza sua a questo qua, va bene. Ma per il supporto didattico come fa a spostare la competenza? Allora bisogna distinguere nell'ambito se lo vuole fare la parte, cioè mi spiego come dovrebbe procedere un dirigente. Secondo me si fa un modello di staff, cioè a me servono per gestire questa scuola 6 figure gestionali e 4 di sostegno alla didattica. Allora, per le gestionali ovviamente se le decide lui, perché è delega di materia sua, per le 4 chiede al collegio, ne discute col collegio, dice magari a me ne servirebbe, mi piacerebbe avere uno così e l'altro così. Il collegio dice sì, queste due secondo noi vanno bene, ma come è previsto il piano di miglioramento andrebbe bene un'altra figura. Insomma, si negozia, il collegio continua a esercitare il potere che ancora ha secondo l'articolo 7 del testo unico. Dopodiché non devono aver paura i dirigenti, perché attuano la 107 emanando un provvedimento che richiama la decisione collegiale e si crea lo staff. Non c'è il problema, la capacità anche deve se essere... noi interrompo perché questa è materia molto viva, anche se noi riteniamo che poi quei 4 o quei 6 per la gestione che si è scelto in proprio se li paga non lui. Possono avere accesso al fondo di istituto, perché il fondo di istituto è legato all'attività deliberata dal collegio dei docenti. Ne paga solo due. Allora, dal punto di vista contrattuale è possibile pagare due collaboratori. Perfetto. Allora, scusate, pure prima era così, ma si aggirava l'ostacolo facendo passare al collegio. Allora, non ci avevo pensato, se è una questione solo di retribuzione. No, solo nel senso per completare questo quadro, se è una questione di completamento del quadro, scusate, ma allora si può fare la stessa cosa. I due passano come prima, gli altri che sono 4 a questo punto che me ne mancano di funzione gestionale più 4 didattiche, allora il dirigente le negozia con loro. E quindi è lo staff dell'autonomia, la scuola autonoma, non più lo staff del dirigente che si è chissà costruire il miracolo. Ma no, ma fa male. La realtà è la miracolo. C'è di tutto. Ho visto a luglio pubblicati organigrammi senza passare. Voglio chiarire una cosa, la maggior parte dei dirigenti scolastici fa con scrupolo il proprio lavoro. Il dirigente scolastico si trova nella parte centrale di una forbice che si stringe, che è fatta di responsabilità, tensioni e contraddizioni, normative e contrattuali. Quindi la maggior parte fa con scrupolo e attenzione il proprio lavoro e cerca di fare lo slalom, certo, tra le varie difficoltà. Poi abbiamo quei rari casi che proprio per la loro rarità sono esemplari, cioè ci sono dirigenti scolastici che in modo molto esemplare in collegio comunicano: Tizio, Caio, Sembrano sono tutti i miei collaboratori. Mi dico, cosa no, dici? Scusa, non ti che posso fermare? Dopodiché non sono io di fronte a questo comando, di fronte a questo impegno, la parte sindacale, cioè i rappresentanti dei lavoratori, che non hanno avuto possibilità di parlare, cioè di esprimere la loro opinione e di negoziare, come tu giustamente stai dicendo, che quando passa dal collegio è tutto pagato. Allora, nell'altro caso, quando con Manni, e pavi che soldi lì. Non sarà chiaro? Dico solo una cosa che ho assistito io. Mese di luglio, provvedimento di un dirigente che pubblica a luglio l'organigramma con tutte le funzioni, e sapete come dice? I docenti individuati nel presente organigramma si intendono incaricati. capite che è veramente, che vuol dire incaricato? Che c'è un'organizzazione sindacale che ha fatto una filosofia sui preposti e sugli incaricati. Ma non esistono, ragazzi, giuridicamente non esiste la delega, esiste il mandato e la delega. Infatti non vi ho detto, ma le figure che passano dal collegio devono avere un mandato collegiale e una delega dirigenziale. Ce l'ho costruito proprio anche formalmente questa cosa. Ci vuole una determina dirigenziale organizzativa nella quale si dice del mio stato fanno parte 10 persone, poi ci vogliono singole deleghe a quelle dirigenziali, dirigenziali, dirigenziali, due più gli incarichi perché c'è il mandato del collegio ed eventualmente a quel punto si può dare delle deleghe aggiuntive a questi soggetti individuati dal collegio. Si applica la norma, si pagano, non vedo nessuna diminuzione di poteri. No, no. Così, è quello che noi sosteniamo. Eccolo qua. Allora, le nuove attribuzioni del sto dirigente. Composizione dello staff l'abbiamo visto. E poi c'è l'attribuzione del bonus. Mi devo contenere qua. Allora. No, io voglio dire solo dal punto di vista della contrattazione. Perché è un'aberrazione giuridica che non esiste in nessuna scuola del mondo, ve lo assicuro che ne so, guardate, e in nessuna organizzazione pubblica del mondo. Perché? Perché l'aberrazione principale consiste nel fatto, come ho detto prima, che la scuola è fondata su un nucleo operativo fatto da semiprofessionisti, come dice lo studioso Cavalli, no? E hanno una quota di libertà professionale. Questa libertà professionale, che è garantita dalla Costituzione, noi avremmo potuto disciplinarla attraverso anche la prima bozza della 107, perché era previsto lo stato giuridico del docente, no? Quindi era previsto lo stato giuridico del docente, la riforma degli ordini collegiali, d'accordo o non d'accordo su sta cosa, avremmo creato una mappa coerente. Avendo cassato da decreti legislativi lo stato giuridico dei docenti e la riforma degli ordini collegiali, noi abbiamo mantenuto il vuoto regolativo della libertà professionale e abbiamo fatto la bella pensata di far riempire il vuoto ad un comitato di cui fa parte il fruitore del servizio. Cioè stiamo chiedendo a un comitato di dire cos'è la qualità dell'insegnamento. È un'aberrazione. È come se in un ospedale si facesse un comitato non sulla puntualità o sulle file, sulle liste d'attesa, che è pure legittima, no? Ma parliamo di servizi. No, ma su come si opera l'appendicite. Io non so come c'è stato uno sciopero generale su questa cosa. Ma solo su questo, ma su questo, diciamo, guardate che non è una cosa, è il cuore di tutto, perché se questi tre anni questa parte stava nei nostri questi direttamente. Lo so, e se in tre anni l'amministrazione riconoscerà tutto quello che sta accadendo, poi ci sarà una legittimazione di fatto di questa aberrazione, diventerà un modello, così avranno eliminato la libertà di insegnamento senza colpo ferire e senza modificare la Costituzione. È drammatica sta roba. Ma arriviamo alla parte dell'attribuzione del bonus. Ma per arrivarci devo riprendere un attimo la ripartizione delle materie. Allora, riprendo da questo passaggio perché Brunetta, per arrivare a per incidere sulle materie di contrattazione, è intervenuto ovviamente sulle attribuzioni dei dirigenti, che sono, come possiamo dire, il braccio operativo dell'organo politico. Quindi il ragionamento pulito è stato questo: c'è un organo politico dell'amministrazione che fissa gli indirizzi, cioè deve avere un organo di gestione di propria fiducia che abbia libertà di movimento. Deve riuscire a organizzare e a gestire il personale per garantire il raggiungimento degli obiettivi. All'americana, no? Ma non è adatto però a una struttura come la scuola, può essere adatta a un'organizzazione di vertice. Queste sono le materie che sapete si contrattano a livello di scuola, ma quelle ripulite dalle materie grigie che ha un obiettivo incontrollabile. Quindi i diritti sindacali, la materia della sicurezza e i criteri per la ripartizione del fondo. Che cosa dobbiamo fare noi per gestire bene la materia in attesa dell'integrazione del modello di relazioni sindacali dell'intesa, appunto, che dovrebbe far riprendere quota alla relazione sindacale nella scuola? Allora, scusate, ma mi è saltata la diapositiva, devo vedere una cosa. che avevo distaltato, e infatti me ne sono andata a positivo, non so che cosa ho premuto. Allora, partiamo da una cosa molto pratica, la piattaforma contrattuale quando si va in contrattazione. Abbiamo detto che quando si va in contrattazione non si va con la difesa delle persone, ma con una base di programmazione delle attività, perché c'è quell'articolo 3 che dice che l'obiettivo è la valorizzazione del personale e il miglioramento della qualità attraverso anche la valorizzazione del personale. E quindi c'è sto TOF oggi come documento di programmazione, sto frullando di tutto, no? Roba didattica, roba contabile, una roba, non sapevo come fare, tutti insieme che risparmiamo. Di tutto, di tutto. Allora, il dirigente quando va in contrattazione come parte datoriale ha due documenti, secondo me, fondamentali: i piani delle attività del personale docente e del personale ATA. Allora, ma dalla somma dei due piani, che adesso vediamo come il contenuto hanno e l'importanza che hanno, c'è la proposta contrattuale e poi ci sono gli altri punti dell'articolo 6 del contratto, esatto. Attenzione però, non è che il dirigente arriva con la proposta contrattuale di fronte a delle persone sconosciute che non sanno nulla di ciò che sta proponendo. La filiera virtuosa da creare è proprio questa, cioè arrivare in contrattazione come momento conclusivo di un iter partecipato e comunicativo, altrimenti non... Guardate cosa ho scritto qua. Da una parte c'è la programmazione delle attività didattiche, dall'altra parte abbiamo, per arrivare al piano delle attività del personale ATA, la direttiva al direttore dei servizi, che è il momento programmatore iniziale, l'azione di comunicazione interna del direttore con il personale ATA, la predisposizione del piano da parte del direttore. È una parte molto importante questa, perché il direttore è un collettore tra il personale ATA e il dirigente, non è un ruolo... C'è un momento contrattuale, l'assemblea. E c'è l'assemblea, infatti, che può essere e deve essere utilizzata. Perfetto. Dal punto di vista giuridico, i due piani sono atti datoriali di organizzazione del lavoro, no? È così. Il problema è che per arrivare a questi due piani datoriali, però, non è stata modificata la competenza di quelli che ci mettono mano. Perché? Perché il direttore dei servizi, no, funziona dei docenti, scusate, guardiamo quello dei docenti, il piano, che è una cosa che sfugge, non si dà l'importanza che dovrebbe dare. Teoricamente è un provvedimento di gestione e organizzazione del personale, ci mancherebbe, no? Praticamente rimane in atto deliberativo del collegio. Il dirigente svolge una funzione propositiva rispetto al piano di attività del personale docente, ma il collegio, secondo voi, capisce l'importanza di questa deroga alla materia datoriale? Non credo. Fa finta di... Hanno in mano lo strumento più importante di organizzazione del lavoro. Abbiamo detto prima che tu arrivassi. Ah, meno male. Va benissimo. E questa cosa bisogna tenerla salda, perché nonostante la potenza è rimasto così, ve lo siete chiesto, con tutti i cani addosso che sono andati rispetto alle competenze del dirigente. Perché è una competenza che al collegio deriva non dal contratto, ma deriva dal testo unico, è una competenza primaria che solo una legge di pari livello può modificare. Quindi diciamo pure che abbiamo una certa paura, la riscrittura del testo unico prevista dalla 107 potrebbe lasciarci aprire qualche sorpresina, potrebbero modificare l'articolo 7 del testo unico. Diciamola, che secondo me stanno facendo questo lavoro sporco. Personale ATA, si tratta di un vero e proprio atto datoriale. Il momento dell'adozione, prima del 150, era successivo alla contrattazione integrativa, anche perché la contrattazione integrativa aveva come oggetto l'organizzazione del lavoro. Essendo stati riformulati gli oggetti di contrattazione, il dirigente oggi va in contrattazione con il piano che costituisce un atto presupposto in quanto atto datoriale, e quindi l'RSU lo devono prendere come atto datoriale, e si parte dal piano per la ripartizione delle risorse. Qual è l'aggiramento da fare rispetto allo sconvolgimento portato alla Brunetta? È che bisogna arrivare al piano con la partecipazione prima. Mi spiego, dal punto di vista formale, o si scatena la per contratto e si va davanti al giudice, non è che c'è tanto, no? Oppure dico, va bene, accettiamo il fatto che è atto di organizzazione del lavoro e quindi di potere datoriale, però bisogna arrivare a quella piattaforma con la partecipazione, anche se non è prevista oggi l'intesa. Chi vieta ad un dirigente, chi vieta all'RSU di chiedere al dirigente una consultazione partecipativa alla costruzione di questi due atti presupposti per, la per il momento contrattuale? E conviene al dirigente arrivare là a in contrattazione come momento finale rispetto alla partecipazione, piuttosto che andare lì a lottare? Anche perché in contrattazione ci sono le RSU, ma ci sono anche i sindacati che non sanno niente di quello che sta accadendo nella scuola. Quindi le... no, nel senso, non sanno niente di quello che sta accadendo. No, aspetta, no, non c'entra una cosa. Non sanno niente delle dinamiche di quell'istituto, delle RSU di quell'istituto con che cosa di genere. E certo, si è scoperto, di qua è la scuola. Quindi è giusto che ci sia una relazione comunicativa forte all'interno tra RSU e dirigenza, ma da chiedere prospettando proprio il beneficio che ne può derivare, non la spingere la cosa che il rapporto tra RSU e organizzazione FNC per esempio territoriale è strettissimo, che non lo perdiamo mai. È obbligatorio, ma è fondamentale. Perché anche la scuola viene guardata, piuttosto che far nascere dopo il progetto. Certo. O quello sì. Lì che viene da 70 km dai nuclei, come andiamo a fare le cose che non potranno fare. Certo, ma infatti conviene a tutti. Anche perché non dimentichiamo che la contrattazione è obbligatoria, ma non è obbligatorio l'accordo. Quindi è interesse di tutti arrivare all'accordo. Torno alla bonus perché mi piace molto questa cosa della contrattabilità del bonus, è successo di tutto. Ma scusate, il legislatore lo chiama bonus e lo chiama compensa accessoria. Nella 165 è diversa, è fondamentalmente diversa. Questo l'articolo 40 che è stato richiamato per dire che non è contrattabile, dice una cosa diversa, esclude dalla contrattazione la valutazione delle prestazioni, non la contrattazione del quantum, che invece è oggetto di contrattazione. Quindi la filiera virtuosa che avrebbero dovuto seguire i dirigenti, quale sarebbe, avrebbe dovuto essere? Allora, vi ripeto, non mi esprimo sulla bontà della procedura qua del comitato di questa cosa assurda, ma non ho detto tutto quello che volevo dire. Allora, diciamo che il comitato ha fissato i criteri, d'accordo o non d'accordo, diciamo che l'ha fissato. Il dirigente si trova questi criteri da dover applicare in ultima istanza e li applica. Ma la contrattazione quando deve intervenire? La contrattazione deve intervenire quando già i criteri sono stati fissati e bisogna ripartire le risorse per applicare poi gli ultimi criteri finali definiti dal dirigente. Quindi in questo modo salvo il ruolo della contrattazione rispetto alla ripartizione delle risorse e riconosco purtroppo, perché è un adempimento formale, questa procedura definita dalla 107. Non è che va contrattato il criterio, su questo sono d'accordo, non può essere contrattato il criterio valutativo, va contrattato il criterio di ripartizione delle risorse. Quindi la capacità del dirigente quale dovrebbe essere? Quella di indirizzare il comitato non oltre quella sua competenza. Non è che il comitato può dire a 3 gli diamo questo, al 10 per... No, il comitato mi deve esplicitare gli indicatori, dopodiché si va in contrattazione e si contratta la ripartizione delle risorse. Secondo una FAC del Ministero è il Comitato che lo dovrebbe fare. Il Ministero si è inventato in una FAC che invece è il Comitato che fissa le minime basi. Ma dove è scritto? Io ho portato l'articolo, guardate. nelle materie relative alle sezioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione al trattamento accessorio, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti. Ma qui non si parla di valutazione delle prestazioni. Questo fa parte della più 45, qual è quello che parla della contrattazione? 45. Il 45 invece dice che i compensi accessori vanno contrattati. Allora non va bene né pensare di contrattare i criteri valutativi, né pensare di non contrattare niente. È una via di mezzo. Io non contratto i criteri valutativi, ma contratto la ripartizione delle risorse. E i compensi. I compensi. Quindi o cambiano la norma oppure si applica il 40 e il 45, ma ognuno in una direzione diversa. Scusate, eccolo qua. Guardate come l'ho ricostruito, ho preso da una nota che ho fatto per Carlini. L'articolo 5 richiamato, cioè quello del 165 che dice che è il dirigente, eccetera, eccetera, che definisce i poteri di organizzazione dirigenziale, è accompagnato nello stesso articolo dai successivi articoli 16 e 17 che riguardano la dirigenza pubblica in particolare. L'articolo 25 che riguarda i dirigenti scolastici va sempre interpretato in coerenza con i principi generali. La tipicità della scuola ha portato ad un'identificazione del profilo dirigenziale parzialmente dissonante con tali principi, poiché il potere organizzativo nell'ambito della didattica è affidato dall'articolo 7 al collegio dei docenti. Non a caso il piano delle attività viene deliberato dal collegio su proposta del dirigente. Perché ho richiamato l'articolo 7? Ve lo dico pure, perché secondo me i criteri valutativi il comitato, prima di definirli, deve negoziarli col collegio, perché altrimenti è tutto illegittimo. Se qualcuno li portasse avanti al giudice, riconoscerebbe l'illegittimità di questa cosa. Non può un comitato declinare una libertà professionale, è incredibile, cioè non si attacca a nessuna norma, a nessuna. Sono d'accordo. Qualche causa sì, sì, sì, lo prego, che è l'unico momento, per prima dei 3 anni, perché sennò questi poi. Allora, una dirigenza che sa utilizzare con la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali in genere devono essere viste come supporto, l'abbiamo detto. La partecipazione e il consenso attivano processi di miglioramento e di adesione alla missione. Ma è possibile che siamo 30 anni indietro, 40 rispetto alle aziende che hanno capito che non è una questione di bontà avere l'adesione del lavoratore, ma è una questione di strategia. Indipendentemente dagli istituti previsti alla norma, il dirigente, l'ho detto, può utilizzare modelli partecipativi, non formalizzandoli. Cioè la mia teoria, piccola teoria, è che un dirigente che è un esecutore della norma deve applicare le norme così come sono, ma è come ci arriva che deve pensare in modo diverso. Come arrivare? Deve fare il dirigente, non è una cosa buona. Il ruolo di presidio dell'RSU, l'RSU devono presidiare. Come tu lo vedi, sto guardando l'orologio, guarda. RSU devono presidiare gli snodi decisionali in qualità di garanti del sistema decisionale entro i termini di legge, ma utilizzando tutti gli spazi negoziali concessi. Quindi per le materie presidiare gli snodi decisionali. Perché? Perché non vuol dire che l'RSU può solo alzare la manina quando c'è da fare il contratto, può sempre chiedere di, come si potrebbe dire, essendo un portatore di interesse l'RSU, può sempre chiedere, sapete che ha il diritto di accesso su tutta la materia, perché? Perché è un portatore di interesse interno, quindi deve chiedere non solo per sapere, ma chiedere di partecipare, chiarendo che non è una partecipazione finalizzata a togliere spazio decisionale, ma a creare consenso, cavolo, e a modificare per quanto possibile, anzi a influenzare per quanto possibile le decisioni degli altri soggetti, motivando, perché la forza dell'RSU sta nella capacità di motivare la richiesta, cioè di motivare la propria posizione. Guardate che è il passaggio più importante, perché non solo dà forza alla posizione, ma spunta le armi alla controparte, la motivazione. È sempre quello. A questo punto basta. Organizziamo, dicendo che la causa bisogna farla. Ci sono anche